get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte e benvenute alla 200ª trasmissione di Una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, che è la nostra trasmissione, la trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane, imperterrite continuiamo, nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito, in onda tutti i martedì come sapete su Radio Onda Rossa. Sugli 87-900 MHz se siete a Roma oppure da qualsiasi altro posto d'Italia e del Lazio sul nostro sito internet potete seguirlo alla pagina www.clrbp.it, cliccate sulla radio, cliccate sull'icona in diretta e sarete collegate con noi. Ma chi siamo noi stasera? Buonasera, buonasera, siamo naturalmente Rosina e Annalisa. Ciao. Sì. Sta facendo la pubblicità della nuova marca di caffè. Oh, stasera, 27 marzo, siamo in diretta, quindi se volete potete telefonarci allo 06 49 17 50 oppure mandare degli sms, quello che pensate, di quello che diciamo, a quale numero? Al 338 41 46 682, il nostro telefono per i messaggi. Esatto, oppure, oggi non abbiamo dimenticato niente, sigla, telefonino, e in più possiamo anche dire il nostro indirizzo email, se preferite invece scrivere, ed è contatti@clrbp.it. Allora, cara Rosina, allora, ho sentito un numero molto particolare. Hai capito? È la 200ª. A noi l'onore. A noi l'onore. Come mai ci è capitato proprio a noi? È stato un caso fortuito, naturalmente. Sì. E allora, niente, diciamo qualcosa su questa trasmissione, come è nato il progetto. Abbiamo pensato oggi di parlarvi un po' di noi del coordinamento lesbiche romane. Che facciamo, che vogliamo, sì, che stiamo a fare tutti i martedì. Che stiamo a fare? Non lo so, per il momento ci sentiamo un po' di musica. Ah, dici? Sì, sì, noi partiamo subito. Raduniamo le idee che sono allora, per te, cara. Come pecore, sai, in giro, sì, infatti. I prati. Sì, vediamo bene cosa dire e cosa non dire. E partiamo con la musica, Annie Lennox con Honestly. Caspita. That you gave has turned upon itself, and all the things you said evaporated. Evaporated. onestamente questo vuol dire. Ma onestamente, ma tu ti aspettavi che questa trasmissione durasse tanto? Sarebbe campata. Si sente poco te, sai? Si sente poco. Mm. Si sente meglio? Sì. Ok. Sono classici disturbi. Allora parlo tu. No, ma non mi sento manch'io. Non so se siamo noi, bassine. Siamo oppure. Bassine. Boh. Vabbè. Qualcuno ci faccia un... Sì, qualcuno ci farà uno squillo prima o poi per dirci che non si sente niente. Sì. Noi va bene. Andiamo avanti. Sì. Andiamo avanti. Dunque, sì, effettivamente sono passati appunto 10 anni dal giorno in cui abbiamo cominciato a lavorare a questo progetto radio. Questo è un progetto che è nato sulla scorta di una passione che il gruppo aveva per, diciamo, la volontà di... c'è Annalisa che si aggira. Ok. Benissimo, allora ci dicono dalla regia che si sente. Visto che non ci facevano gli sms, potevo andare al di là dello specchio se si sentiva. Al di là del vetro, scusa. Al di là del vetro. Ok. Dunque, stavo dicendo, figurati, che questo è un progetto che appunto è nato sulla scorta di una passione del gruppo che viveva in quel periodo un momento di difficoltà e quindi aveva deciso di intraprendere un percorso nuovo. Tra l'altro è stato un caso fortuito arrivare qui a Radio Onda Rossa, anzi di questo dobbiamo ringraziare una compagna del nostro gruppo, Cristina, che spero sia all'ascolto e che adesso non fa più parte del gruppo, ma la ricordiamo ovviamente con molto affetto. Lei venne qui, a quel tempo era precaria nella scuola, venne qui, fece una trasmissione con le compagne di Onda Rossa e ritornò al Buon Pastore con questa idea bella, solare, questa possibilità appunto di operare una collaborazione, di fare un lavoro comune. E quindi una sera al Buon Pastore decidemmo di buttarci. Tu ancora non c'eri, sei venuto dopo. Sì. Il tuo apporto è stato. Però ricordo che c'era una compagna, pure lei, Deborah, che io conosco, insomma, che frequentavo all'epoca, che salutiamo. E che me ne parlava con entusiasmo anche lei, quindi mi è piaciuto subito il progetto. Hai deciso di entrare nel gruppo, sì. Hai fatto la cosa più sana che potevi fare nella tua vita, poi ti sei amaramente pentita, ma insomma, all'epoca eri molto felice. Sì. Quindi decidemmo di fare questa trasmissione con l'intento appunto di creare un nuovo tipo di visione rispetto alle cose che ci attraversavano e che ci attraversano, che attraversano le donne lesbiche, il movimento lesbico e via dicendo. E abbiamo scelto questo titolo, è una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, molte delle nostre ascoltatrici di vecchia data sicuramente sanno perché, però lo ripetiamo perché è ripetita Juvent appunto, e questa era una battuta di un vecchio film, L'assassinio di Sister George, in cui appunto la protagonista Sister George durante un litigio con la sua compagna viene appunto apostrofata da questa giovane fidanzata con la frase appunto: cosa credi, che siano tutte lesbiche arrabbiate come te? E l'altra dice: no, infatti è una calamità di cui mi rendo perfettamente conto. Cioè la Sister George si rendeva perfettamente conto che il fatto che ci siano poche lesbiche arrabbiate è una vera e propria calamità. E Caterina, che è la nostra compagnuccia The Voice, che in questo periodo è stata assente, lontana dalle attività del coordinamento, siccome c'era un sacco di tempo fra una cosa e l'altra, ha prodotto un documento che ha una specie di excursus sulle attività, su questi 10 anni di attività in radio, e noi adesso ve ne daremo lettura perché lei ha fatto questo grosso lavoro e noi insomma le siamo grate. Sì, lei pure parte, appunto, rispiega il titolo che tu hai così bene spiegato, da dove grazie. Nasce, e da questo poi parte la sua domanda di dire: ma dare questo titolo alla trasmissione vuol dire che siamo veramente arrabbiate, vuol dire che le separatiste, perché voi sapete che noi il coordinamento lesbico lesbiche romane insiste nel suo portare avanti la sua politica separatista, facciamo iniziative solo donne e non solo, anche nel pensiero, prendiamo schiaffi tutte esatto ma noi perseveriamo. Vuol dire che le separatiste sono intransigenti? Vuol dire quindi che siamo lo zoccolo duro? Ma se essere se stesse e pensare con la propria testa, se avere una matrice lesbo-femminista, se percepire come campanello d'allarme ogni qualsivoglia tentativo di snaturarci, se ribellarsi contro la posizione più comoda dell'invisibilità e dell'omologazione, se tutte queste cose significano essere arrabbiati, intransigenti, appartenenti allo zoccolo duro del lesbismo, allora forse sì, siamo proprio noi. E a chiunque ci dica che le nostre battaglie sono faticose e scomode, che il movimento ha scelto un'altra strada, rispondiamo: è una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Come sapete, il nostro gruppo ha sede a via San Francesco di Sales 1B, qui a Roma, e si è costituito nel 95. Molte cose ci hanno visto coinvolti dalla nostra prima uscita pubblica del 3 giugno, pensate, del 95, ormai 12 anni fa, quasi 12 anni fa a Roma, nella manifestazione sull'autodeterminazione della donna, più conosciuta come La prima parola e l'ultima. E ricordiamo anche la nostra adesione ai Gay Pride di Bologna nel 95 e di Napoli nel 96, nonché alla seconda settimana lesbica che si svolse a Bologna nel 96. Siamo state poi tra i gruppi promotori dei convegni, entrambi tenutisi a Roma di giugno 97 e maggio 2005. Uno dei nostri interessi fondamentali è combattere il sistema culturale e politico dominante. Il nostro intento è quello di intaccare la cultura che tenta di affossare chi sa e chi vuole essere lesbica. Attraverso le trasmissioni vogliamo che si instaurino meccanismi di costruzione sociale e culturale che rendano visibile la scelta lesbica nella vasta gamma di possibilità. Non chiediamo di essere accettate, tollerate, tutelate, né tantomeno inglobate. Vogliamo molto di più. E con il nostro porci in essere, con il nostro manifestarci, intendiamo dare parola, voce e corpo ad una cultura di donne elaborata da donne per donne. Una cultura di espressione in cui le diverse esperienze si confrontano, si articolano e si rimandano intelligenza e consapevolezza. Nei nostri palinsesti abbiamo dato spazio alla musica femminile, facendo ascoltare voci di chi appartiene alla sfera della musica indipendente, e anche se ultimamente poi le nostre ricerche non stanno dando i frutti voluti, e quindi ci ha aiutato in questa documentazione il gruppo di donne tedesche come l'Etikala, e la loro ricerca è stata una scommessa personale e politica ed è servita come trampolino di lancio per realtà femminili musicali che sicuramente conoscete, le Kick la Luna, le Indigo Girls o le Bella Donna. Le donne di Tikala le abbiamo intervistate facendole conoscere nell'ambito della nostra rubrica sull'imprenditoria femminile, ma tante altre interviste sono seguite, non so se vuoi... Ah sì, abbiamo contattato molte donne, partiamo un po' da lontano, le sorellastre ad esempio che gestivano il bar della Casa Internazionale della Donna, che appunto all'epoca non era ancora Casa Internazionale, e le donne della libreria del Tempo Ritrovato di Roma, le lesbacce incolte che erano impegnate in una editoria molto fuori dai circuiti. Purtroppo molte di queste realtà oggi non esistono più, e perché appunto c'è un tipo di pressione che restringe gli spazi e le attività delle donne, e quindi questa è una realtà purtroppo diffusa oggi. E cos'altro abbiamo fatto in tutti questi anni? Abbiamo dato spazio anche al Festival di Immaginaria, certo, che si tiene ogni anno ultimamente ad anni alternati, quindi dando voce e spazio a registe tra cui Barbara Hammer, che forse è qualcuno che nel circuito ha avuto la fortuna di vedere qualche suo film, o Cecilia Neant-Folk, Luchi Massa, che tra l'altro è anche adesso attualmente ha fondato il nuovo gruppo Fuori Campo, nuovo si fa per dire, saranno 3 anni, ed altri, insomma sono registe e filmmaker che con il loro sguardo lesbico propongono un'immagine positiva del lesbismo, quindi ci ha fatto piacere dare spazio a queste donne. E poi molte altre donne impegnate nella politica, sì, come Graziella Bertozzo, e all'epoca la intervistammo per un progetto che veniva diciamo esportato nelle scuole, che si chiamava Quella ragazza, quel ragazzo contro le discriminazioni e contro l'omofobia, e Giovanni Olivieri con gli archivi lesbici italiani, tanti gruppi separatisti, il Pianeta Viola di Brescia, le Desiderande di Bari, appunto Visibilia di Bologna, e abbiamo parlato con loro dei loro progetti, delle loro attività politiche, di quelle culturali, abbiamo intervistato donne straniere come l'EPA della Serbia, oppure Isabel Castillo, Alessandra Novoa, la portoricana Mirka Negroni, tutte ci hanno mostrato la realtà del lesbismo così come viene vissuto in varie parti del mondo, nelle parti del mondo da cui loro provenivano. E abbiamo fatto una serie di resoconti su tutte le iniziative che abbiamo organizzato come centro femminista separatista, ricordiamo anche una collaborazione anche con le compagne della radio, con la filmmaker afroamericana Aisha Saida Simmons, che aveva presentato un cortometraggio che si chiamava No, nel quale appunto si denunciava la violenza sulle donne all'interno della comunità nera americana. Abbiamo collaborato anche con le donne di Nodi, i nostri diritti, dalla collaborazione con queste compagne africane è scaturito un incontro che si chiamava appunto Oppressione a confronto, dove in realtà ognuna metteva sul piatto le difficoltà che il proprio vissuto culturale faceva vivere. E quando abbiamo proiettato il film Out, abbiamo incontrato Silvia Baraldini, e poi ancora abbiamo lavorato con Simonetta Spinelli su Nick Wittig, Maria Rosa Cutrufelli per Kate Millett, molte altre donne hanno lavorato con noi, hanno parlato con noi delle loro esperienze, delle loro pubblicazioni, Delia Vaccarello con Le Principesse Azzurre, oppure Pina Nuzzo, con la quale abbiamo lavorato, Pina Nuzzo dell'Udi naturalmente, dell'Unione Donne in Italia, con la quale abbiamo tenuto un corso di arte, oppure Nicoletta Poi Di Mani. Sì, l'ultima iniziativa a cui abbiamo collaborato con il CLR, di cui abbiamo dato resoconti in radio, è stata proprio questa Novat, che è organizzata dal gruppo, dall'associazione Facciamo Breccia, in collaborazione con noi, e quindi abbiamo sentito appunto gli interventi della senatrice Lidia Menapace e di Nicoletta Poi Di Mani. E poi che altro? Abbiamo fatto molte cose in questi anni, tante rubriche che ogni tanto riescono fuori dal cappello, ricicciano, e non abbiamo appunto, come Caterina ama spesso dire, non abbiamo dimenticato le donne dimenticate, appunto una delle nostre rubriche, forse quella a cui appunto Caterina è più affezionata, è una rubrica che si chiama Donne e Storia, nella quale abbiamo raccontato la vita di donne che sono vissute in epoche diverse, che però hanno in comune il pregio di aver segnato la storia, sia pure con modalità e motivazioni diverse. Diciamo l'intento di questa rubrica, chiamiamola così, è appunto di effettuare un'opera di riscatto nei confronti di queste donne che sono sempre state sottovalutate, relegate a ruoli di gregarie, non incentivate, comunque in generale non rispettate per i loro saperi e le loro capacità, e quindi facendo riaffiorare la storia, le imprese, le scoperte, i risultati e le gesta di tutte quelle donne che in quanto tali erano state insabbiate dalla cultura patriarcale, appunto combattiamo la cultura patriarcale stessa. E un'altra cosa abbiamo sempre cercato di fare, cioè di contrastare tutte quelle teorie strampalate che parlano e straparlano di lesbismo e di omosessualità. Nel corso del tempo le lesbiche sono sempre state definite come streghe, pazze, maschi mancati, perverse, assassine, moleste, violente, e tutto questo, tutte queste affermazioni sono state suffragate da una serie di tesi assolutamente discutibili da un punto di vista scientifico. E quindi abbiamo parlato di Vera Slepoi, che all'epoca era la presidente dell'Associazione degli Psicologi Italiani, oppure del dottor Hammer, o anche di alcune altre personalità, chiamiamole così, come Shirait, che aveva desessualizzato completamente, introducendo i cosiddetti legami del terzo tipo alla questione lesbica. Abbiamo avuto a che fare con molti soggetti. E, primo messaggino, c'è un primo messaggino. Magari ci ricordano qualche argomento che abbiamo trattato. Ci ricordano qualche argomento trattato. E sì, costantemente sarebbe... guardiamo insomma la realtà che ci circonda, certo. Gli avvenimenti, li commentiamo qualche volta ironicamente, qualche volta con tanta rabbia, però cerchiamo di dare un'opinione diversa siamo ancora qui nella speranza che anche per i prossimi 10 anni resisteremo, faremo come Borrelli, la parola d'ordine è resistere. Non so se noi resisteremo, anche lui non ha resistito granché alla fine. E quindi che cosa dire? Io direi che abbiamo già parlato abbastanza alle nostre ascoltatrici, quindi forse dopo questo piccolo escurso su un po' di musica ci sta bene, e poi vediamo come continuare. Un brano che mi piace molto è di Angelique Kidjo. per favore, ci sono i segretari per controllare. Io saluto Elena, che è stata carina, che ci ha mandato un SMS. Grazie. Ciao Elena. E ricordiamo che comunque siamo qui in diretta, io e Rosina, che parliamo della, questa è la nostra 200ª trasmissione di Una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Soltanto per ricordarvi il nostro cellulare, che dice? Certo, certamente. È 338-4146-682, se volete dirci la nostra su qualunque cosa vi vada. La loro, la vostra. Su qualunque cosa vi vada. Diteci la nostra, perché noi non la sappiamo. Manco sappiamo. E per ricordarvi anche il nostro indirizzo email, che è contatti@clrbp.it, scriveteci. Oh. Benissimo, a questo punto un po' sì. di excursus sulle magnifiche sorti progressive del coordinamento lesbico romano e della calamità l'abbiamo fatta, per cui possiamo magari cominciare a dare uno sguardo intorno alle cose che ci succedono in questo preciso istante, in questi momenti, e non possiamo esimerci ovviamente dal parlare di tutto quello che succede appunto in questi giorni, dico, non dico, dicevo oramai, visto che i dico sono morti e sepolti, la piazza del Family Gay, la piazza del Family Day, eccetera, eccetera. Vedi come cambiare una consonante cambia di molto le cose. Allora, innanzitutto noi già da molto tempo abbiamo una posizione, come dire, un po' in contrasto con quello che generalmente il movimento, così, un movimento un po' più istituzionale porta avanti. Noi siamo sempre stati in opposizione critica rispetto, non so, ai matrimoni gay, alle unioni civili, eccetera, eccetera. Ci piace il discorso dei diritti civili e dei diritti di cittadinanza, ci piace un po' di meno l'idea appunto di una struttura sociale che ricalchi la famiglia tradizionale. Non ci piace perché come gruppo, come strategia, noi pensiamo che la famiglia sia il luogo della discriminazione e dell'oppressione delle donne, e sia contestualmente anche il luogo del possesso degli uomini, da parte degli uomini, sulle donne e sui figli. Quindi il concetto legalizzato. Il concetto di famiglia ci è un po' ostico, naturalmente nulla osta che ci siano altre realtà che intendano avvalersi di questi presunti diritti. Noi come gruppo riteniamo che si possano attuare altre strategie. Pensiamo che un conto sia, vorrei ridire qui come al solito la frase di Audre Lorde, che diceva che non si abbatte la casa del padrone con gli strumenti del padrone. Quindi riteniamo che non si possa combattere quel modello di oppressione riproducendolo, clonandolo in qualche modo, ma cambiando i valori interni, cioè anziché un uomo e una donna, due donne o due uomini. Credo che insomma ci siano altre possibilità. Poi soprattutto, diciamo, siamo pure contrari al fatto che, poiché non possiamo avere dei diritti diciamo in quanto singole, allora tanto vale allargare questi benefici soltanto alle coppie, piuttosto che osare molto di più ed andare direttamente contro l'istituzione della famiglia e pensare ai diritti delle singole e dei singoli in quanto persone, non accoppiate. Certamente questo ci pone in su una posizione un po' schizofrenica, io credo, perché in realtà sembra quasi che facciamo il discorso del Vaticano. Ovviamente non è così. Noi crediamo che appunto come singole e singoli cittadine e cittadini di questo paese abbiamo dei diritti di cittadinanza, proprio perché siamo cittadini di questo paese, e questi diritti li vogliamo avere in quanto persone, in quanto individui, e non perché siamo all'interno di una relazione di coppia. Molti anni fa, ormai nel 97, 10 anni fa, neanche a farlo apposta, già si discuteva di queste cose, si pensava appunto ai matrimoni di serie A, ai matrimoni di serie B. Crediamo che la possibilità che si attui un discorso di familizzazione delle relazioni lesbiche ed omosessuali possa portare ad una contrazione dei diritti delle lesbiche e degli omosessuali, ma insomma, il discorso è veramente molto lungo. Facciamo notare, ma insomma, la notizia è già di un paio di giorni fa, per cui non diciamo nulla di nuovo, che arcigay e arcilesbica sono tornati sui propri passi. Voi sapete che avevano aderito alla, loro dicevano probabilmente in chiave provocatori, avevano aderito alla manifestazione del 12 maggio del Family Day, ma sono tornati sui loro passi perché appunto hanno realizzato così improvvisamente, non si capisce bene per quale motivo improvvisamente, forse era già chiaro dall'inizio, che quella manifestazione era una manifestazione anti-dico e soprattutto una manifestazione anti-gay e anti-lesbiche. Comunque Arcigay e Arcilesbica hanno ritirato l'adesione al Family Day, però noi a questo proposito vogliamo leggere una mail di Graziella Bertozzo di Azione Gay e Lesbica, sì, che dice la sua appunto sulla famiglia, sul modello sociale familiare, e esprime molto bene il suo pensiero, e ve la leggiamo integralmente, non è lunghissima, quindi avrete la pazienza di seguirci. Ma è molto interessante. È molto molto interessante. Parto io. La funzione primaria della famiglia è quella di riprodurre la società da un punto di vista biologico, ma soprattutto da un punto di vista socioculturale. Per questo famiglia e società cambiano vicendevolmente a seconda delle epoche e delle regioni del mondo. Per quanto riguarda la funzione di riproduzione della cultura e della società da parte della famiglia, si parla di famiglia dell'orientamento, per riferirsi al ruolo che essa ha verso i figli, per i quali la famiglia determina la collocazione sociale e influisce fortemente sulla loro formazione culturale e nella loro socializzazione. Per quanto riguarda invece la funzione di riproduzione biologica della società, si parla di famiglia della procreazione, quando due persone formano un gruppo familiare in cui si riproducono biologicamente e culturalmente attraverso i propri figli. Questa definizione di famiglia l'ho trovata in Wikipedia ed è la versione italiana, quindi quella più vicina alla cultura del nostro paese. Con delle varianti, la medesima definizione la ritroviamo anche nelle altre lingue. Quello che vorrei far notare è che la sua funzione è relativa all'orientamento. Non si parla qui di funzione, di orientamento, di ruolo sessuale. Eppure, visto che i ruoli predominanti nella famiglia sono proprio quello maschile e femminile, credo innegabile che questo tipo di orientamento sia predominante all'interno della famiglia. Vediamo che cosa si intende per madre. Il termine madre definisce il genitore femmina di qualunque specie animale e viene usato nella nostra società come termine ufficiale e burocratico. Nell'essere umano la figura della madre è sempre stata di fondamentale importanza perché presiede l'accudimento primario e fisico, come nell'animale, ma inoltre ne influenza fondamentalmente anche l'aspetto psicologico. Il padre è tradizionalmente il genitore maschio di un bambino o di un ragazzo, e nel cristianesimo Dio è chiamato padre principalmente in ragione del mistero di relazione padre-figlio che lo rapporta con Gesù Cristo. Ho copiato sempre dalla Libertaria Wikipedia questo termine. Il padre è il genitore maschio di un bambino o di un ragazzo, è scritto proprio così. La madre è relativa alla specie animale ed il padre è relativo alla specie culturale maschio. Quindi non faccio commenti, mi limito a dire che questa è la famiglia, questo è l'orientamento che intende riprodurre. La famiglia come dato culturale, quindi. Non ha importanza l'orientamento sessuale, ma l'orientamento culturale. Sono una donna, una femmina, per cui la famiglia prevede il ruolo di madre, addetta all'accudimento. Mi ribello a questo ruolo culturale che mi si vuol far credere che sia naturale è la legge dell'ameba che si riproduce in ogni modo possibile perché il suo DNA rimanga inalterato. Naturale è la selezione naturale che, lasciando sopravvivere da ameba l'ameba, ha reso le specie che si sono ribellate al DNA unico come quelle più adatte alla sopravvivenza. Mi ribello al DNA unico, mi ribello alla legge della giungla, la prima legge naturale degli animali. Chiedo scusa, purtroppo sono le interferenze. Un milione di suonerie, comprato questo cellulare nuovo. Scusate, quindi mi ribello al DNA unico, mi ribello alla legge della giungla, la prima legge naturale degli animali con le cellule differenziate. Vuoi continuare tu? Allora, mi ribello alla dominazione di chi ha più muscoli, cioè il maschio, su chi ha il potere della riproduzione, cioè la femmina. Se volete che i vostri geni maschili sopravvivano, dovrete giungere a patti con chi ha il potere, reso possibile dal volere, di renderli attivi. I geni che sottomettono, che violentano, che negano le donne saranno cancellati dalla natura e dalla storia. Il Family Day, festeggiato da uomini che sottomettono, violentano, negano le donne, è soltanto l'urlo di rabbia di chi sta scomparendo dalla storia. L'ultimo lupo è sempre il più pericoloso. Sottomette, violenta e nega proprio perché è al suo capolinea, come l'ultimo dinosauro. O si evolve o scompare. La family, come l'ultimo lupo, o si evolve o scompare, che sia dei o che sia gay. Questo è il pensiero di Graziella Bertozzo, che ci sentiamo di sottoscrivere in pieno, ampiamente. E quindi, insomma, io credo che sia anche superfluo commentare le cose che Graziella dice, le abbiamo dette per molto tempo, continuiamo a pensarle e speriamo che anche altre compagne, altre donne, altre lesbiche possano come dire, trovare un punto di incontro con noi rispetto a questa posizione, che forse è un po' eccentrica rispetto a quello che è il pensiero diciamo comune relativamente al discorso della famiglia, seppure famiglia di stampo, di matrice diversa. E quella del pensiero unico è un pensiero da cattivi maestri, crediamo. Speriamo di poter mantenere le differenze nel rispetto appunto reciproco. Non so se Annalisa ha preparato un pezzo musicale, vedo che armeggia con... Sì, però non ci azzecca niente. Stasera è un po' così. No, sei un po' così perché mi fa rabbia, capite? Dice, allora non ti possiamo dare tutto, allora accontentati del poco. Ma noi non ci accontentiamo. La maggior parte delle lesbiche, dei gay, ragionano così. Vabbè, i gay vogliono la loro stabilità, il loro angoletto tranquillo, le loro sicurezze. Le lesbiche non lo so. Forse vogliono delle sicurezze anche loro, ma probabilmente non saranno quindi queste le sicurezze. Piuttosto che combattere queste che sono state le istituzioni che ci hanno da sempre reso vittime, in un modo o in un altro, anche se non proprio nel termine che ci hanno violentato padri o fratelli, anche se non c'è successo questo, ma chi di noi non ricorda un episodio violento nell'ambito della propria famiglia? Se non fosse un fatto, come ti si vestite, pare un maschio. Dopo questa napoletanità non so che cosa ci produrrà a livello musicale, Annalisa. Sentiamo. Yeah. E questa era Sezenaksu. Ti piace? Molto, non la conoscevo e tu sai che la mia conoscenza musicale è pressoché prossima allo zero, per cui... Dunque, con questa bella introduzione musicale vogliamo ricordarvi del boicottaggio che abbiamo messo in atto, che stiamo cercando di mettere in atto contro i prodotti di Dolce & Gabbana. La polemica è vecchia, insomma, vecchia nel senso vecchia di un paio di mesi, ci sono state delle pubblicità veramente terribili prodotte da Dolce & Gabbana per appunto la reclamizzazione dei loro abiti. Una su tutte è la foto, direi scioccante, di uno stupro di gruppo normalmente perpetrato su una donna. La pubblicità è stata respinta in Spagna e anche qui in Italia appunto è scoppiato un caso, addirittura si è mossa la CGIL con un gradito risveglio e in questa fotografia si vedeva appunto una donna a terra tenuta bloccata da un uomo e altri maschi in attesa del loro turno sullo sfondo. I Dolce & Gabbana hanno ritirato la foto dopo la barilam che è successa, e sostenendo che comunque la ritiravano, ma quella fotografia era un'opera d'arte. Hanno quindi urlato indignati che di questo passo si sarebbero dovuti chiudere anche i musei, perché se l'arte viene trattata in questo modo, anche l'arte dei musei ovviamente è lesiva della dignità delle donne. Crediamo che ci sia ben poco da dire, se non che sarebbe ora appunto di finirla con queste pubblicità violente, pornografiche, e di uso e abuso sistematico delle donne, del loro corpo, e così per appunto le fantasie perverse maschili, siano esse gay o etero, e di provvedere appunto a questa eventualità con una revisione delle norme che regolamentano le campagne pubblicitarie nel nostro paese. Nel frattempo appunto l'unica cosa che resta da fare alle cittadine consumatrici, per usare un termine che in questo periodo va molto per la maggiore, è appunto diciamo agire una delle poche armi che ci sono state lasciate dal sistema patriarcale capitalista, e che, oppure della legge di mercato, insomma come la vogliamo chiamare, e appunto il boicottaggio. Quindi boicottiamo e facciamo boicottare i prodotti Dolce & Gabbana e gabbiamoli noi. Per quello che costano, anche si può fare, costano, si può anche fare. Cioè, non dovrebbe essere un boicottaggio anche taroccabile, mi raccomando. Quindi se credete che questa sia una cosa giusta da fare, fate circolare questa voce, il boicottaggio. Sì, sul nostro sito c'è proprio il documento che abbiamo mandato in giro, e ci farebbe piacere avere il vostro sostegno. C'è anche un'altra pubblicità, sì, vedi che infatti si stanno risvegliando un po' di proteste rispetto, mi fa piacere, rispetto all'utilizzo delle donne nella pubblicità, e questa volta è toccata alla birra Peroni. Sì. E vuoi raccontarla tu, che la conosci un po' meglio? Sì, penso che molti di voi, tranne Rosina, che gliel'ho fatta vedere stasera, perché io non vedo la pubblicità, è su YouTube che... Comunque, se avete visto l'ultima pubblicità che passa più volte al giorno, che da 160 anni la birra Peroni è sempre la stessa, e come da 160 anni certe cose non cambiano mai. E cosa hanno scelto per far vedere che le cose non cambiano mai? Non far vedere qualche maschio cretino, no? Che stupra, bensì una donna che parcheggia una carrozza. 160 anni fa la parcheggiava in una maniera indegna, subito dopo si vede la stessa donna, la stessa attrice, che ha posteggiato la sua auto rossa fiammante in una posizione altrettanto indegna. E quindi questa è la pubblicità contro cui un gruppo di donne hanno scritto all'AFI, a noi, chiedendo sostegno, perché il giudice di pace ha detto che servono delle firme, delle adesioni a questa cosa per poter agire di conseguenza contro la Peroni, e ci hanno fornito questo indirizzo email che vi prego di diffondere, che è Studio Vasselli, che è l'avvocato che sta seguendo questa pratica, @yahoo.it. Io avrei voluto fare pure quell'altra contro la Saratoga, La Saratoga era una colla famosissima, no? Per far vedere che incollava bene, c'era sta donna nuda dentro la doccia che si era incollata tutta la doccia. Non aveva le guarnizioni lente. Comunque, quindi, se vi trovate d'accordo anche con questo, sì, scrivete la vostra adesione al Studio Vasselli. Segnalateci pure altre pubblicità contro cui possiamo fare delle cose. Secondo me è uno strumento buono quello di boicottare o di far circolare fra noi donne, fra noi lesbiche, un messaggio del genere, anche di stanchezza. Sembra che da uno studio fatto in Inghilterra le pubblicità che utilizzano le donne, dove non c'entra niente, tipo la Saratoga, tipo la birra Peroni, non abbiano più quel riscontro da parte dei clienti, dei possibili usufruitori. In Italia, come al solito, siamo più lenti, però magari vedremo un omino frustato per la pubblicità dei Cerotti un giorno, chissà. No, lì c'è il collegamento, meglio di no. Oh, invece passiamo agli appuntamenti, che si avvicina la Pasqua. E se è vero che è Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Noi vi segnaliamo una bellissima iniziativa che si tiene da parecchi anni ormai, vicino Torino, ed è Agape, dal titolo Agape, ed è un campo lesbico di più giorni, dal 5 al 9 aprile. Quest'anno sembra veramente bello perché il titolo L'Eden, ed è tratto da una poesia di Patrizia Cavalli che dice che si intitola appunto L'Eden. Mi hanno mandato via e io me lo rifaccio, e visto che ci sono lo miglioro. E questa è una poesia da pigra divinità e pigra sorte. Sono tanti percorsi lesbici, infinite le direzioni, mille luoghi in cui incontrarci, mille musiche e danzatrici. La nostra cultura è immersa ed ha radici profonde. Proviamo a condividere esperienze concrete, scambiandoci consapevolezza, e scopriamo progetti realizzati e pratiche politiche in corso. Lasciamoci condurre e sedurre da noi, da poete, scrittrici, filosofi, artiste e lesbiche impegnate in realtà quotidiane e portate avanti da anni. Ci condurranno, ci sono i vari nomi di chi interviene, tra cui mi piace segnalare che c'è ancora una volta Nicoletta Poedimani, che farà un intervento, un laboratorio senza paura, un laboratorio di autodifesa. Poi c'è, tra gli ospiti e tematiche delle giornate di campo, ci sarà Simonetta Spinelli, che salutiamo magari in ascolto, dal titolo Contraddizioni, sguardo critico nel mondo politico lesbico, me l'immagino, no? Bella arrabbiata. Rosa Liccardo, che parla invece di Safia, una rete di lesbiche e intergenerazionalità. Eleonora Dall'Ovo, storia di una teatrante lesbica. E poi le Tribad, addirittura, che sono un gruppo famoso lesbico, percorsi di musiciste lesbiche. Sono previste le proiezioni di cortometraggi di Luchi Massa e delle Badole. Poi ci sono, partecipa la libreria, c'è la cantante Selli, serata danzante, come al solito, insomma, un bel quattro giorni. La cantante Selli, che noi abbiamo anche ospitato. Esatto, sì. L'arrivo è previsto per giovedì 5 aprile, entro cena, e poi segue la serata di accoglienza, eccetera, eccetera. Allora, se vi interessa, io vi do un numero di telefono che dovrei... No, non ve lo do il numero di telefono, vi do il sito direttamente dove potete andare, oppure potete scrivere sempre a noi di CLR, vi mettiamo in contatto con queste donne per vedere che se c'è ancora posto, se vi trovate dalle parti di Torino. Il sito è www.agapecentroecumenico.org. Cliccate sul programma 2007, non vi sbagliate, se non vi spaventate tra i vari programmi, e c'è proprio campo lesbico, però. Carino, no? Molto carino. E c'è un'altra iniziativa, che è Le Bisce d'Acqua, che con l'associazione di Genova, che spesso faceva iniziative, poi dice che hanno avuto una serie di problemi, come tutti i gruppi lesbici. Tutti i gruppi lesbici, sì. Oh, questa iniziativa è un appuntamento per il 31 di marzo, quindi a strettissima scadenza, brevissima scadenza, e Eleonora Dall'Ovo presenta le sue letture. Il titolo è un po' difficile. Allora, ad arrotolar scalda aranci e a piegar lenzuola. Per capire bene che cosa significa bisognerà vedere lo spettacolo, quindi sai che un giorno riusciamo a farla rivenire a Roma, probabilmente, cioè. Lo faremo, prenderemo contatti. Quindi, presso la Libreria delle Donne a Genova, per informazioni il 349 67 33 123, ripeto 349 67 33 123, questo è il cellulare di Antonella che vi darà tutte le informazioni. Allora, ad arrotolar scaldaranci e a piegar lenzuola con Eleonora Dall'Ovo a Genova il 31 di marzo. A questo punto il tempo è tiranno. Io passerei un ultimo brano, poi saluti e la sigla finale. E ci rivediamo il prossimo martedì. Avete ancora 5 minuti se volete parlarci. Chiamarci. È pau, è pedra, è il fin do caminho, è il resto di toco, è un poco sozinho, è un caco di vidro, è a vida e il sol. È a noite e a morte, è un laço e anzò. Pelo bar do campo, è un nó da madeira, cainga, caindeia, è una tinta pireira, è madeira de vento, tondo da ribanceira, è un mistério profundo, è o quero, è o não quero, è o vento ventando, è o fim da ladeira, é a viga e o vão, festa da cumieira. Chuva chovendo, a conversa ribeira, nas águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra na tiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regado, uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço e o fim do caminho, no rosto desgosto e um pouco sozinho. É uma estrepa, é um prego, é uma conta, é um ponto, é um pingo pingando, é uma ponta, é um ponto, é um peixe, um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, e o tijolo chegando, é a leia, é o dia, é o fim da picada, é a garapa de cana, e o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, o copo na cama, é o caranguejado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rá, é um resto de mato, na luz da manhã, sal as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pom, pom. É José, é um espinho na mão, é um corte em pé. São as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um poço assinho, é um passo, uma ponte, é um sapo, uma rá, é um belo horizonte, é a febre terça. São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, rio, rio, resto, pouco, pouco, rio, água, hidro, vida, ó, doente, forte, aço, sol, au, au, au, ela, ela, rio, rio, rio, rio, rio, esto, esto, esto, esto, esto, oco, rio, água, água. Pensato, visto che tutta l'acqua che ha fatto oggi, di mettere acqua de marzo. Acqua de marzo, come pronunci bene. Guarda, stasera la tua musica mi è molto piaciuta. Oh, grazie, serio. Rosina, che sei difficile. Hai notato che non ti ho messo Giorgia? Ho notato e ti ringrazio veramente infinitamente di questo. No, perché mo esce l'ultimo, quindi aspetto. Tu sai bene che io, oltre a non guardare la televisione, evito accuratamente di sentire certa musica. No, sì, no. È vero. È tanto un dato caruccia. È un dato tanto. Baci Giorgia, so pure che ci ascolta. Oh signore, ci ascolta Giorgia? Sì, sicuramente. Quanto è bellino. Beh. Allora, a questo punto sono le 10:05 minuti, sì. L'ora dei saluti, l'ora più triste. Il 30 andremo con la replica, ma noi saremo qui, quindi. Diciamo, quindi se volete intervenire noi saremo qui, anzi avremo pure più tempo per chiacchierare. E niente, alla prossima, vi ringraziamo come al solito per averci ascoltato, anche oggi che è la 200esima trasmissione. Baci a tutte e buonanotte. Buonanotte. Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that